Il Falco e il Gabbiano presenta. Chuck si vola. Di Enrico Ruggeri. Il sesto senso. C'è un postulato per il quale io mi batto da sempre, sia quando scrivo canzoni che quando faccio altre cose nella vita. Il postulato è che lo stesso evento può apparire molto diverso a seconda del punto di vista dal quale lo guardi. La realtà ha tante facce, cambia in continuazione a seconda di come la si osserva, ed è questo, insomma, il grande fascino della vita e quindi della narrazione della vita. Ognuno di noi interpreta quello che vede a partire dal proprio vissuto e costruisce un mondo dal quale cerca di escludere tutto quello che gli provoca dolore. Noi cerchiamo disperatamente di difenderci dal dolore, ma allora dove va a finire quello che scartiamo? Nella nostra parte inconscia, nelle zone buie della nostra anima, nel nostro profondo? Insomma, comunque la pensiate, una cosa è certa: non scompare, sono i fantasmi del passato. Ognuno di noi ne ha, che potrebbero essere il senso di colpa, il rimorso, la vergogna per qualcosa che non abbiamo mai confessato. E la storia che vi racconto oggi parla proprio di questo, di fantasmi, sia che ve li immaginiate come spettri che appaiono improvvisamente dal buio, sia che siano dei ricordi del passato che tornano a tormentarci. Andrà bene in entrambi i casi. La cosa importante è che da questo momento voi vi sforziate di vederli, magari sfruttando un po' del vostro sesto senso. Così incrociamo i fantasmi che ci perseguiteranno negli anni futuri. Siedono insignificanti ai bordi della strada come poveri mendicanti, e dovessimo accorgerci di loro, li scorgiamo solo con la coda dell'occhio. La possibilità che fossero lì ad aspettare proprio noi raramente ci attraversa i pensieri. Invece aspettano, e quando siamo passati raccolgono i loro fagotti di ricordi e si incamminano sulle nostre orme. E piano piano, metro dopo metro, guadagnano terreno. I fantasmi seguono le nostre orme con il loro carico di ricordi, almeno questo è quello che dice uno che di queste cose se ne intende, Stephen King. È con questa suggestione che voglio introdurvi la storia di oggi. Il protagonista del nostro racconto è un uomo, si chiama Malcolm Crowe, ma non c'è solo lui, un ruolo fondamentale c'è anche un bambino chiamato Cole, che in un certo senso si contrappone a Malcolm, quasi a formare il suo doppio. Cole ha un passato difficile, un presente pieno di mostri. Malcolm invece i suoi mostri fa finta di non vederli, li rimuove, lascia alle spalle tutto, sperando che questi mostri si decidano a lasciarlo in pace. In entrambi i casi questi mostri, come ho detto prima, li possiamo chiamare fantasmi, perché rappresentano le paure più grandi, i rimpianti più grandi, forse i rimorsi più terribili. La racconteremo così, questa storia. Ci immergeremo nel mondo di uno e nel mondo dell'altro, sforzandoci di vedere la vita dal loro punto di vista. Preparatevi a seguirci in una storia in cui la paura è protagonista, ma con la paura è protagonista anche il coraggio di affrontarla. La nostra storia si svolge nel sud di Filadelfia, nello stato della Pennsylvania, nella costa est degli Stati Uniti. Qui vivono sia Malcolm che Cole, anche se ancora non si conoscono. Cole Sear, a 9 anni, vive con sua mamma Lynn e il piccolo Sebastian, che è un cucciolotto di husky di neanche 2 mesi. Lynn ha preso il cane per fare compagnia al bambino, ma non solo. Spera che l'animale possa fare stare meglio questo ragazzino timido, insicuro, spaventato dal mondo, con la situazione che è precipitata da quando il padre è sparito, abbandonando lui e la madre, e i medici hanno diagnosticato nel bambino diversi problemi, crisi d'ansia, difficoltà nei rapporti interpersonali, soprattutto una certa instabilità dell'umore, cose che accadono dopo il divorzio dei genitori, niente di allarmante, però la sua condizione non sembra trovare sollievo. Così un giorno di settembre del 1998 Cole incontra un nuovo terapeuta, il dottor Malcolm Crowe. De profundis clamo ad te, Domine. De profundis clamo ad te, Domine. Sta tranquillo, Cole. Io sono il dottor Malcolm Crowe. Oggi dovevamo incontrarci, ma sono mancato all'appuntamento. Scusami. Ho notato i tuoi occhiali, ho visto che sono senza lenti. Sono di mio padre. Le lenti mi fanno male agli occhi. Di cosa parlavi con i tuoi soldati quando sono entrato? De profundis clamo ad te, Domine. Si chiama latino. Tutti i tuoi soldati parlano latino? No. Uno solo. Tu sei un buon dottore? Crowe è uno psicologo infantile, uno di quelli che si dedicano anima e corpo al loro lavoro come se fosse una missione, e lo fa perché sa che prima di tutto, prima del caso clinico, prima della medicina, lui ha a che fare con delle persone, con dei bambini che hanno bisogno di essere aiutati. È così bravo Crowe che un anno prima gli è stato conferito un encomio speciale, una targa incorniciata che gli ha consegnato personalmente il sindaco della città. È un riconoscimento per risultati straordinari, per la sua dedizione al lavoro, per i suoi continui sforzi per migliorare la qualità della vita di tante famiglie. Purtroppo però la sera in cui gli viene consegnato il premio è una sera che verrà segnata da una tragedia. È una sera importante questa per noi. Finalmente qualcuno ha riconosciuto i sacrifici che hai fatto. Hai il dono di insegnare ai bambini ad essere forti, situazioni in cui quasi tutti gli adulti se la farebbero addosso. Grazie. Malcolm e la moglie Anna sono nella loro casa a Philadelphia, al 47 di Locust Street. Rientrano dalla serata di gala nella quale Malcolm è stato premiato, sono allegri, sono contenti di come sono andate le cose, bevono un bicchiere di vino davanti al camino, poi salgono in camera da letto e lì si accorgono che qualcosa non va, la finestra della camera è rotta, qualcuno deve essere entrato in casa e l'allegria di pochi istanti prima lascia lo spazio a una comprensibile tensione. Ci vuole poco per trovare un intruso nascosto nel bagno, un ragazzo sulla ventina che sta in piedi, tremante e ha solo addosso le mutande. Malcolm capisce che c'è qualcosa che non va, non può essere un rapinatore, forse un tossico, un disperato in crisi di astinenza, ma perché sta piangendo con quella faccia terrorizzata? E il ragazzo comincia a dire delle frasi confuse. L'unica cosa che si capisce davvero è che deve essere un ex paziente di Malcolm e lui si sforza di ricordare. Arriva un nome, Vincent Gray, ma è troppo tardi. Vincent prende una pistola, spara un colpo in direzione di Malcolm, poi punta l'arma su di sé togliendosi la vita. La morte di Vincent per Malcolm è un fallimento terribile, non solo professionale ma anche umano. Il suo successo non vale nulla di fronte alla tragedia. Da quel momento la sua vita cambierà profondamente perché lui diventa distaccato, silenzioso, scompare anima e corpo nel suo lavoro. È proprio così che incontra l'altro protagonista, il piccolo Cole. Crowe cerca di entrare in confidenza col bambino, vuol capire cosa c'è che non va nella sua vita e il fatto è che quelle che sembrano solo delle semplici insicurezze stanno nascondendo dei risvolti decisamente inquietanti. Cole, per esempio, racconta a Malcolm di avere disegnato un uomo che ne uccide un altro con un cacciavite, facendo spaventare la madre e gli insegnanti. Adesso dice di non disegnare più quelle cose, ma come può essergli venuto in mente? Poi c'è quella frase, quella che Cole l'ha pronunciato la prima volta che si sono incontrati. De profundis clamo a te, Domine, dagli abissi io ti invoco, o Signore. Sono parole dell'Antico Testamento strane. È strano che le pronunci un bambino che non ha neanche 10 anni. Però, malgrado queste particolarità, nella vita del piccolo Cole non sembrano esserci traumi così importanti. Sì, il padre ha abbandonato la famiglia per andare a vivere con un'altra donna, però di genitori divorziati, insomma, ce ne sono tanti. I bambini non reagiscono così di solito, considerato anche che Lynn, la madre di Cole, è molto attenta ai bisogni del figlio, gli vuole bene, fa due lavori in contemporanea per non fargli mancare nulla. E allora, qual è il problema di Cole? Per andare a scuola passo di qua con Tommy Tommisimo. È il tuo migliore amico? Mi odia. Tu lo odi? No. Ha organizzato tutto tua madre? Sì. Parli mai con lei di come stanno le cose con Tommy? Non le racconto niente. Perché no? Lei non mi guarda come mi guardano gli altri. Non voglio che lo faccia, non deve sapere. Che cosa? Che sono uno scemo. Ehi, tu non sei uno scemo. Capito? Non dar retta a quelli che cercano di convincerti di questo, sono puttanate. Non devi passare la vita a crederci. E Malcolm piano piano sta riuscendo a entrare nel mondo di Cole, però nel frattempo sta trascurando il suo di mondo. I fantasmi del passato continuano a tormentarlo, perché dopo l'incidente con Vincent lui è cambiato, e cambia anche inevitabilmente il suo rapporto con la moglie Anna. Il senso di colpa per il fallimento ha portato Malcolm a concentrarsi sul lavoro, a ignorare tutto il resto, quasi volesse espiare la sua colpa. E il rapporto con Anna sta naufragando, è l'ombra di quello che era in passato, non si parlano quasi più, lei ha iniziato anche a prendere antidepressivi e non glielo dice nemmeno, e il malessere è evidente anche al di fuori delle mura domestiche, perché quando succedono queste cose, insomma, poi le donne reagiscono in qualche modo, insomma, c'è un collega di lei che comincia a farle la corte. In psicologia il rapporto tra medico e paziente è un rapporto, è un legame molto particolare. È difficile pretendere che qualcuno si fidi di te se tu non ti fidi di lui. Si sfocia poi in quello che tecnicamente si chiama transfer. Forse è per quello che Malcolm, pur sapendo che non è consigliabile farlo, insomma, un giorno decide di raccontare di sé al piccolo Cole. C'era una volta un uomo che si chiamava Malcolm. Lavorava con i bambini e gli piaceva. Gli piaceva più di ogni altra cosa. Poi una sera scopre di aver commesso uno sbaglio con uno di loro. Non era riuscito ad aiutarlo. Da quel momento non fa che pensare a lui, non può dimenticare. Da allora tutto è stato diverso. Lui non è più la stessa persona di una volta. E a sua moglie non piace la persona che lui è diventato. A malapena si parlano ormai, sono due estranei. E poi un giorno Malcolm incontra un bambino meraviglioso. Un bambino veramente fico. Gli ricorda tantissimo l'altro. E Malcolm decide di tentare di aiutare questo bambino. Perché sente che se riuscisse ad aiutare questo bambino, sarebbe come aiutare anche quell'altro. E poi c'è una festa di compleanno a casa di un altro bambino e Cole rimane chiuso in un ripostiglio. Solo pochi minuti, però lo spavento è enorme. Quando la madre lo tira fuori, lui trema, ha delle ferite addosso. Lynn è convinta che siano stati i compagni, magari un bullo della scuola. E il dottor Hill, il medico dell'ospedale, invece la pensa diversamente, perché sospetta che sia la madre a maltrattarlo. E Cole vorrebbe parlare, vorrebbe dire cosa gli è successo davvero, ma qualcosa lo blocca. Dice a Malcolm che non vuole avere più paura. E allora è quella, è la paura che lo blocca. Ma paura di cosa poi? Ora voglio dirti il mio segreto. Va bene. Vedo la gente morta. Quando dormi. Quando sei sveglio. Continuamente. Sono dappertutto. Cole dice di vedere le persone morte come fossero dei fantasmi. E come si può credere a una storia del genere? E soprattutto, come si fa a aiutare questo bambino? Malcolm si convince che la patologia è più grave di quello che lui pensava all'inizio. Qui ci sono allucinazioni visive, paranoie, ferite autoinflitte, forse addirittura una forma di schizofrenia precoce, e lui non ha idea di come aiutarlo, non riesce a capire qual è la causa del problema, però ha paura, non può permettersi un altro caso come quello dello sciagurato Vincent, il ragazzo che si è suicidato in casa sua. Insomma, aiutare Cole mandando via i suoi fantasmi è l'unico modo, forse, per Crow di affrontare i suoi di fantasmi. Chuck si vola. Il sesto senso. Stiamo raccontando la storia di Malcolm Crowe, uno psicologo infantile che è rimasto segnato dalla fine tragica di uno dei suoi pazienti, un ragazzo, Vincent Gray, che non era riuscito a trovare la pace, che aveva ritenuto responsabile il dottore, era entrato in casa sua, aveva tentato di togliergli la vita e poi si era ucciso. E Malcolm è schiacciato dal senso di colpa per quello che è successo, la sua vita diventa un'ombra sbiadita di quello che era un tempo, e la prima vittima, se così si può dire, è la moglie, o comunque il rapporto con la moglie. Era una storia che prima era piena d'amore, adesso tutto sembra compromesso. E poi qualcosa sembra cambiare quando Malcolm si prende carico di un caso. È un bambino, il piccolo Cole Shear, ha 9 anni, assomiglia per certi versi al povero Vincent. Cole non riesce a accettare il divorzio dei genitori, non si integra a scuola, è vittima di bullismo. Malcolm entra in confidenza con lui e scopre un'altra verità: i problemi di Cole sono legati a un segreto che il bambino nasconde a tutti, un segreto terrificante, difficile da credere. Questo bambino è convinto di vedere i fantasmi delle persone morte. La madre di Cole, Lynn, è una donna attenta, premurosa verso il figlio, e naturalmente è anche molto preoccupata perché il bambino sembra mentirle su molte cose. Lei poi trova nella sua stanza dei fogli in cui ha scritto cose terrificanti, invocando morti, omicidi, odio. La verità è che anche Lynn porta con sé i fantasmi di un passato che non ha ancora superato, perché è stata abbandonata dal marito per un'altra donna, si è trovata a dover gestire i suoi problemi assieme a quelli del figlio. Insomma, si ritiene in qualche modo responsabile dei comportamenti di Cole, vorrebbe vederlo felice, invece è sopraffatta dal senso di colpa. Lei non può aiutarlo e forse nemmeno Malcolm può farlo, forse non può farlo nessuno. Non posso più essere il tuo dottore. Non ho prestato abbastanza attenzione alla mia famiglia. Quando uno fa così accadono cose brutte. Lo capisci? Dovrò affidarti a un altro, conosco due psicologi. Non abbandonarmi. Non arrenderti, sei solo che può aiutarmi, lo so. Non posso aiutarti. Tu... Può farlo qualcun altro. Tu mi credi, vero? Dottor Crow, tu credi al mio segreto, vero? Non so risponderti, Cole. Come puoi aiutarmi se non riesci a credermi? Anna, la moglie di Malcolm, sta cedendo all'interesse di un collega. Crow se ne è accorto, sa che deve fare qualcosa prima che il rapporto finisca per sempre, ma cosa fare? Da un lato vorrebbe correre dalla moglie, lasciare da parte il lavoro, salvare il salvabile, ricostruire questo rapporto, ma lui sa che se non si libera dal suo senso di colpa, se non si confronta con i fantasmi del suo passato, non riuscirà comunque a riavere la moglie. Questa è una legge della vita: se non risolve risolvi i tuoi problemi, non riesci a risolvere i problemi degli altri o i problemi della tua coppia. E oltretutto abbandonare Cole in questo modo significherebbe prendersi carico di un altro peso, di un'altra responsabilità, di un'altra colpa. Però il problema di Cole è difficilmente risolvibile, perché nessuno capisce, neanche Malcolm, a cosa è dovuto. La risposta lui la trova nel passato, quello stesso passato da cui si vorrebbe liberare. Prima di uccidersi, Vincent aveva detto una frase che naturalmente si è fissata nella mente di Crow, una frase che sembrava non avere nessun significato, cioè: sapete perché uno ha paura quando è solo? Cosa voleva dire? Quali erano le paure di Vincent? E poi, è giusto lasciare solo anche Cole? Nel cercare una risposta a queste domande, Malcolm si mette a riascoltare delle vecchie registrazioni fatte durante le sedute con Vincent e scopre un particolare molto inquietante. Sai una cosa, neanche a me piacciono le siringhe. Quando ero bambino ho fatto un'analisi del sangue e ho vomitato le patatine al formaggio col chili tutte addosso all'infermiere. Mi scusi, c'è il dottor Reed sulla 2. Vincent, puoi scusarmi, devo rispondere al telefono. Questione di un minuto, d'accordo? D'accordo. Alzando il volume del nastro nel momento in cui Vincent viene lasciato da solo, si sente chiaramente una voce sconosciuta che ripete: io no quiero morir. In spagnolo vuol dire: io non voglio morire. Malcolm è spaventato, ma adesso comincia a prendere sul serio le parole di Cole. Forse i fantasmi esistono davvero, forse in qualche modo quel bambino riesce a vederli, non sono solo fantasie. Malcolm, per la prima volta, è pronto veramente a comprendere e aiutare Cole. Va da lui e gli chiede cosa pensa che vogliano da lui i fantasmi. Forse cercano aiuto, risponde il bambino, ed è questo il punto. La verità è che comunque tu li vedi, veda i fantasmi, devi essere pronto a affrontarli, magari ancora prima di aver capito perché sono lì. Lo spiega anche lo psicologo Ferdinando Riolo. La funzione analitica consente di rendere visibili i fantasmi ed entrare in contatto con le parti di noi più terrificanti, poiché è solo ciò che conosciamo che possiamo controllare. Il dare senso all'esperienza la restituisce in una forma diversa. Grazie al significato, l'esperienza rivive e diviene anche suscettibile di trasformarsi. E solo entrando in contatto con i fantasmi noi possiamo capire, dare senso a quello che vediamo, sfuggire così alla parte irrazionale che così tanto ci spaventa. Convinto da Malcolm, Cole decide di aiutare lo spirito di una bambina, Kira Collins, morta apparentemente a causa di una malattia incurabile. Cole, accompagnato da Crow, raggiunge la casa della bambina durante il suo funerale. Grazie al fantasma trova una videocassetta che consegna al padre di Kira. Il nastro è stato registrato quando la bambina era ancora viva, la si vede mentre gioca con delle marionette. Dopo averle messe via, però, lascia la telecamera accesa. A questo punto nella sala entra la madre per portarle il pranzo, ma non la fa mangiare subito. Prima, di nascosto, aggiunge alla zuppa una sostanza tossica. In pratica il video svela l'impensabile: è stata la madre a causare la malattia di Kira, è stata lei quindi a ucciderla. La storia di Kira è la prova che i fantasmi che vede Cole esistono davvero, ma è più importante di questo è il fatto che lui è riuscito a affrontare la sua paura. Cole può finalmente dare un senso a quello che vede. Al mondo però ci sono dei fantasmi più spaventosi dei suoi, dei fantasmi che nessuno può vedere ma che hanno il potere di condizionarci in ogni momento, come succede a Malcolm, che è vittima dei suoi sensi di colpa e dei suoi rimpianti. Essere riuscito a aiutare Cole forse può riportare serenità nella sua vita e forse lui potrà davvero fare pace con il passato. Chuck si vola. Il sesto senso. Il piccolo Cole è riuscito a affrontare i fantasmi che lo tormentano, che forse non spariranno mai davvero, ma almeno non lo terrorizzeranno più. Tocca a Malcolm affrontare il passato, adesso che è riuscito a riscattarsi almeno moralmente dalla storia terribile di Vincent. Insomma, adesso è il momento di tornare da sua moglie. È proprio Cole che gli suggerisce come fare. Aspetta che si addormenti, dice, così ti ascolterà e non se ne accorgerà nemmeno. Il consiglio di Cole è il consiglio di un bambino, che è un po' ingenuo se vogliamo, però in realtà non così stupido. Quando Malcolm la sera torna a casa, trova Anna sdraiata sul divano, si è addormentata guardando il filmino del loro matrimonio. La TV è ancora accesa, mostra scene di un passato felice. Malcolm le vorrebbe parlare ma non vuole svegliarla, le parla nel sonno come suggeriva Cole. In questo modo riesce a dirle tutto quello che si è tenuto dentro, le dice che per lui nulla è cambiato, che è ancora innamorato di lei, che gli errori del passato si possono superare. Nel sonno Anna sembra quasi rispondergli, bisbiglia: perché mi hai lasciata? E Malcolm è confuso. Lasciata? Lui non l'ha mai lasciata. Forse Anna sta solo sognando. A un certo punto però lei fa cadere a terra la fede nuziale. Malcolm fa per raccoglierla e si accorge che quella non è la fede di Anna, ma la sua. In questo momento lui capisce e rimette insieme i ricordi. Vedo della gente. Non sanno di essere morti. Li vedi spesso? Continuamente. Sono dappertutto. Solo quello che vogliono vedere. I fantasmi vedono solo quello che vogliono vedere. Aveva detto così Cole. Malcolm ha fatto proprio questo, non ha voluto vedere, non ha voluto accettare che quella notte dell'anno precedente, quando Vincent gli ha sparato, lui non si è salvato, è morto tra le braccia di sua moglie. Perché mi hai lasciata? Chiede lei nel sonno. E adesso la domanda ha tutto un altro senso. Anna non parla più con lui semplicemente perché lui non c'è più, è un fantasma come tanti altri, e l'unico a poterlo vedere è sempre stato solo Cole. Malcolm non ha accettato la sua morte, non poteva lasciare sua moglie, non poteva perdonarsi di non essere riuscito a aiutare Vincent. Ha aiutato Cole, è vero, ma anche Cole ha aiutato Malcolm a affrontare il fantasma più grande della sua vita, cioè il fantasma di se stesso. Ora posso andare via, dice Malcolm a Anna. Dovevo solo fare un paio di cose. La storia di Malcolm e di Cole è una storia di fantasmi, è vero, però non è solo questo. La loro vita, un po' come quella di tutti noi, è piena di incomprensioni, di dubbi, di cose non dette. Non fare nulla, però, non fare nulla perché magari siamo troppo spaventati, non ci libererà mai dalla schiavitù delle nostre paure. Forse è per questo che alla fine Cole si decide a parlare con sua madre e a confessare il suo segreto. Sono pronto a comunicare con te ora. Comunicare? Dirti i miei segreti. Che cosa c'è? Sai quell'incidente laggiù? Sì. Qualcuno si è fatto male. Davvero? Una signora è morta. Oh mio Dio, ma tu la vedi? Sì. E alla fine Lynn si convince davvero delle parole del figlio. L'esistenza di Cole in qualche modo rimarrà sempre una specie di compromesso tra la vita e la morte, tra il sogno e la realtà. E lui può aiutare, però, può aiutare le persone a riconciliarsi col loro passato, i fantasmi, ma anche le persone ancora in vita, come è successo con la moglie di Malcolm e con il papà di Kira. Non è una dote così straordinaria, se ci pensate. Qualcuno la chiama sesto senso, forse sarebbe più appropriato parlare di empatia, saper ascoltare, capire gli altri superando il proprio egocentrismo, cercando di essere meno autoriferiti. Non è una capacità speciale, tutti, se vogliamo, siamo siamo in grado di farlo. Questo non ha nulla a che vedere con la compassione, con la pietas, con qualcosa di sentimentale. Lo spiega bene Laura Boella, professoressa di filosofia morale, nel suo libro Sentire l'altro. Empatia non vuol dire gioire o soffrire insieme all'altro, e nemmeno avere un'esatta nozione delle ragioni e delle cause del sentire altrui. Empatia vuol dire allargare la propria esperienza, renderla capace di accogliere il dolore e la gioia altrui, mantenendo la distinzione tra me e l'altro. Empatia è rendersi conto, cogliere la realtà del dolore e della gioia di altri, non soffrire o gioire in prima persona o immedesimarsi. Può accadere, e spesso accade, che in un secondo tempo intervenga una partecipazione emotiva nella forma del gioire e del soffrire insieme. Ma ciò può avvenire solo se c'è stata empatia. All'inizio di questa storia ho parlato di fantasmi del passato. Forse sono proprio queste le ombre più spaventose con le quali ci dobbiamo confrontare, e più delle volte sono molto più terrificanti di tutti i fantasmi che magari possiamo vedere nei film horror. La tensione, l'angoscia, la solitudine, e sono il rumore di fondo della nostra vita. Affrontare tutto questo è un atto di coraggio, aiutare gli altri a farlo è una grande dimostrazione di apertura, e il nostro colpo d'ala lo possiamo compiere anche stando fermi, soltanto guardando dentro noi stessi o guardando negli occhi qualcun altro. Se volete mandare dei commenti, sapete dove trovarci. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Paolo Buzzone. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.